Gianluca Nicoletti. Un automobilista ubriaco alla guida ha investito e ucciso un ciclista, ne ha investiti altri tre, poi ha proseguito la sua corsa, infine è stato arrestato dai carabinieri. Una volta sottoposto all'etilotest è risultato positivo. L'uomo ha perso il controllo della Mercedes dopo una curva sulla statale 18 e ha quindi travolto il gruppo di ciclisti. Erano in 10, 7 sono morti sul colpo, altri 3 sono rimasti gravemente feriti. Tutti facevano parte di un gruppo sportivo di San Biase, uno dei 3 quartieri di Lamezia Terme, che ogni domenica esce sulla strada per delle passeggiate di un centinaio di chilometri a volta. Denunciata a piede libero per omicidio stradale, lesioni plurime gravissime, omissione di soccorso, la 52enne che ieri ha investito 4 ciclisti sull'Aurelia a Roma, uccidendone uno, poi si è data la fuga. Premetto subito che l'intento di questa trasmissione non è fare valutazioni o assegnazioni o ipotesi di responsabilità riguardo all'incidente di Alex Zanardi. È un fatto talmente grave, talmente importante e talmente tragico nella sua dinamica che in questo momento merita rispetto e attenzione per la salute della persona coinvolta. Però è indubbio, non si può fare a meno di osservare, che questo incidente riapre una questione che abbiamo spesso trattato in questa trasmissione, che è il divario di valutazioni riguardo il sicuro dividersi le strade tra ciclisti e automobilisti. E è sintomatico che ciò che è accaduto al chilometro 39.800 della provinciale 146 di Chianciano, nel comune di Pienza, ad Alex Zanardi, rappresenta in sé, riguardo questa dialettica che è sempre rappresentato dei punti molto aspri, tutte le volte l'abbiamo rappresentata, abbiamo visto gli italiani divisi in due grandi fazioni, ciclisti contro automobilisti, ognuno aveva le sue ragioni. Ma riflettiamo che oggi può essere invece un'occasione per affrontarla con un maggiore senso razionale. Considerate che Zanardi è stato prima campione di Formula 1, quindi automobilista, e poi campione in qualche maniera di handbike, che riguarda comunque il mondo dei ciclisti. Quindi è una persona che non ha appartenenza a nessuna di queste categorie. Nessuno può rivendicarlo come suo esclusivamente, ma tutti possono rivendicarlo come un esempio straordinario di essere umano che, nonostante le avverse situazioni e gli incidenti in cui si è trovato, ha sempre rappresentato una forza di volontà eccezionale. Quindi oggi riproponiamo il problema attraverso un sondaggio, perché vorremmo che le persone che percorrono le nostre strade, sia in automobile che in bicicletta, riflettano sul fatto che ogni 40 ore in Italia muore un ciclista in incidente stradale. Prendo i dati da un rapporto dell'agenzia AGI di un mese fa circa. L'ultimo incidente mortale è avvenuto riguardo questo rapporto di un mese fa, era accaduto a Roma, ma ce ne sono stati altri in quest'ultimo mese. Era un uomo che era stato travolto sulla via Boccea mentre era in bicicletta da un'auto da un pirata alla strada. Però se ci rifacciamo all'ultimo dato Istat disponibile, che del 2018, in tutta Italia sono morte 222 persone in sinistri che hanno a che fare con le biciclette. Il numero dei feriti dei mezzi a pedali sono stati 16.224 solo nel 2018. Quindi sicuramente per chi pedala le nostre strade non sono un luogo sicuro, ma nella stessa maniera in tutta la fase 2, cosiddetta fase 2 di contenimento del Covid-19, in molte città che hanno puntato proprio sulla cosiddetta mobilità dolce come alternativa al traffico, si è visto come in realtà sarebbe facile andare in bicicletta laddove non ci sono macchine, ma non è possibile mantenere sempre un clima di regolazione del traffico come è stata durante il lockdown, e quindi dobbiamo capire come poter risolvere questo problema, perlomeno andare incontro al legittimo desiderio, alla necessità di alcune persone di muoversi in bicicletta non soltanto per necessità quotidiana, ma anche come attività ricreativa, attività sportiva, come le persone che stavano pedalando assieme a Zanardi il giorno dell'incidente, considerando anche che però nel 2018 solo a Milano ci sono stati 802 sinistri che hanno coinvolto biciclette, sempre nel 2018, a Roma 207, a Bologna 249, a Firenze 220, nella regione Lombardia soltanto nel capoluogo, quindi a Milano, 145 morti in bicicletta tra il 2015 e il 2016. Sono cifre che fanno riflettere sul fatto che probabilmente un'alternativa vada trovata per non star sempre poi a parlarne quando sono i sinistri a riportarci all'attualità un problema. Quindi 800 24 0024, ascoltate con attenzione questo sondaggio, abbiamo posto delle possibilità. Sono delle ipotesi che vanno integrate, vanno corroborate con l'esperienza di chi ci ascolta. Dai, sondaggio. Dopo il drammatico incidente occorso ad Alex Zanardi, si è riaccesa in Italia l'antica disputa sul possesso della strada tra ciclisti e automobilisti. Gli automobilisti da sempre lamentano che andare in bici al di fuori delle piste ciclabili è rischioso. Al contrario, i ciclisti rivendicano il loro diritto di utilizzare le strade con i loro mezzi ecologici e accusano gli automobilisti di avere scarsa attenzione per l'incolumità di chi pedala. Certo è che gli incidenti che mietono vittime tra i ciclisti continuano a verificarsi. Oggi vogliamo sapere da voi, che siate ciclisti o automobilisti, quali pensate possano essere le soluzioni per evitare incidenti. Chiamate ora all'800 24 0024 e diteci quale di queste ipotesi vi trova più favorevole o se ne avete altre da proporre. 1. Riservare alcune strade alla circolazione in bici solo in determinate giornate, come ad esempio il weekend. 2. Vietare l'accesso dei ciclisti a quelle strade in cui le biciclette possono essere più di intralcio alle auto. 3. Separare le auto dalle biciclette anche al di fuori dei centri urbani, incrementando la costruzione di ciclovie su tutto il territorio nazionale. Naturalmente sono proposte basate su quello che abbiamo a disposizione come dati. Nelle strade italiane ci sono incidenti, ci sono persone che vanno in bicicletta, vanno a volte in gruppo in bicicletta, a volte percorrono le strade per turismo, per piacere, per attività sportiva, e questo va a contrastare quella che è la viabilità in queste strade. Richiede questo una grande attenzione, un grande esercizio di prudenza, ma anche di pazienza. Ci sono delle alternative? Sì, ho davanti, preso da un foglio della Valtellina, quelli che sono i progetti delle ciclovie turistiche nazionali, progetti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dei Beni Artistici, Culturali e Turistici, in parte sono realizzate, in parte vanno realizzate. Le ciclovie permettono una viabilità limitata, ma comunque le auto possono transitare. Le piste ciclabili sono solo per le biciclette, ma qualche giornale le chiama le maledette piste ciclabili. Perché? Perché nelle città naturalmente rappresentano una limitazione alla libera circolazione delle autovetture. Ricordo la ciclovia del Sole, con un itinerario che deve collegare tutto il paese, isole comprese, da San Candido in Trentino Alto Adige fino a Palermo. È un progetto bellissimo, 3.000 chilometri, ma sarà fatto? Non sarà fatto. La ciclovia del Garda, un altro percorso di 140 chilometri lungo le sponde del lago di Garda. La ciclovia Ventò, un itinerario di 680 chilometri lungo il fiume Po, collega Venezia, Torino, 121 comuni, passando anche per i Navigli. Sarebbe la più lunga struttura per cicloturismo in Italia e nel sud Europa. Tutte bellissime iniziative, però io mi rendo conto e mi sento di rappresentare entrambe le difficoltà e le esigenze, andando io in bicicletta quando posso, in maniera molto approssimativa e rozza, a volte da solo, a volte in tandem con mio figlio, non è certo una passeggiata, per le strade di Roma, che è la città meno ciclabile del mondo, anche se c'è la buona volontà di aver fatto alcune piste ciclabili, che sono notevolmente percorribili, ma allo stesso tempo ci sono grandi difficoltà. Andare in bicicletta in una città è molto pericoloso, una città turistica è ancora più pericoloso, andare nelle strade provinciali è pericolosissimo. Molte volte da automobilista vado in strade di montagna seguendo dei tornanti, devo dire che anche io provo un certo disagio quando vedo file di ciclisti che poi non seguono mai sempre le norme di andare in fila indiana o accoppiati al massimo in due. Ci sono i trupponi, molte volte è difficile perché bisognerebbe sorpassarli, bisogna anche rispettarli, bisogna fare attenzione. In certe situazioni è veramente snervante pensare comunque che anche loro hanno diritto di percorrere le strade. Forse serve una normativa diversa, serve un'attenzione diversa, una sensibilità diversa. 800 24 0024, noi poniamo tre possibilità: strade riservate o in determinate giornate, come ad esempio nel weekend, soltanto per chi fa attività ciclistica; vietare l'accesso ai ciclisti in quelle strade in cui è pericoloso oggettivamente per loro percorrere le strade frequentate da automobili, perché non c'è storia, è pericoloso; separare auto e biciclette anche al di fuori dei centri urbani, con l'idea appunto di piste ciclabili o ciclovie, che sono strade parzialmente frequentabili da automobili. 800 24 0024, Vincenzo da Roma. Pronto? L'ascolto, sì, l'ascolto, Vincenzo. Io volevo soltanto segnalare che per la seconda volta sulla strada, sulla via Tuscolana a Roma, sono stato investito un anno fa circa da un furgone che il guidatore stava soltanto guardando il telefonino, quindi non mi ha visto e mi ha messo sotto e va bene. E in questo caso ieri, diciamo, non è, avrebbe investito chiunque, perché ha compiuto sì, perché non mi ha visto dei peggiori proprio che si possono compiere. L'altro caso? Invece l'altro ieri sera alle 18:44 sono stato investito da una moto che in quel momento stava litigando o discutendo con un'altra macchina per una infrazione, non lo so cosa stavano facendo, il quale in accelerazione con la moto mi ha fatto esplodere la bicicletta da sotto, da dove stavo seduto. Una cosa inconcepibile. Mi c'è, sono la tipica sgommata da incazzato, che uno gli ha sgassate parte per e mi ha preso a me e lui non mi si aspettava. Io ero come un albero di Natale, vestito col casco, ero vestito con il gilet, avevo con la tutina fosforescente, cioè avevo, a parte la tutina fosforescente, cioè avevo i fosforescenti sui bracci, avevo i fosforescenti sulle ecco, sulle lei mi spieghi, visto che è il primo testimone, lei cos'è? Un cicloturista, lo fa per sport? No, io sono un ciclista che tutti i giorni da Roma su Roma mi sposto per una trentina di chilometri, 30-40 chilometri, ho 75 anni. Sua teta. No, lo secondo faccio per questo... sì. È un problema risolvibile con una campagna allora, culturale, o ci vogliono delle normative proprio stringenti? La normativa sarebbe quella di riservare sempre e comunque, anche specialmente nelle strade allo scorrimento veloce, un pezzo di strada di un metro e mezzo per farci camminare queste macchine. Il problema è che a Roma attualmente le piste ciclabili non vengono viste bene, perché sembra che hanno tolto spazio alle macchine, hanno tolto spazio ai parcheggi, e in più c'è un altro problema. Io percorro tutte le mattine la ciclabile di via Tuscolana. È un problema sia al mattino che il pomeriggio con i pedoni. I pedoni che hanno scambiato la pista ciclabile per un posto più riservato e più piacevole. Quindi lei Giampaolo, per cui il primo ascoltatore ci pone il problema in una duplice lettura. Da una parte i ciclisti sono stretti fra gli automobilisti, che non si accorgono di loro, non li considerano, i pedoni, e questo è vero, a Roma le poche rare piste ciclabili, bisogna fare lo slalom di quelli che le prendono come piste per fare corsa, per fare trekking e via dicendo, e è spiacevole suonare dietro al pedone che si gira, ti guarda male, come dire cosa fai, ce l'hai con me, che sto, cosa faccio di male che passeggio. Però tutto questo rientra in un bisogno culturale, un profondo bisogno culturale di cambio culturale. Ci fermiamo un istante. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Melog. Oggi vogliamo sapere da voi, che siate ciclisti o automobilisti, quali pensate possano essere le soluzioni per evitare incidenti. Chiamate ora all'800 24 0024 e diteci quale di queste ipotesi vi trova più favorevole o se ne avete altre da proporre. 1. Riservare alcune strade alla circolazione in bici solo in determinate giornate, come ad esempio il weekend. 2. Vietare l'accesso dei ciclisti a quelle strade in cui le biciclette possono essere più d'intralcio alle auto. 3. separare le auto dalle biciclette anche al di fuori dei centri urbani, incrementando la costruzione di piste ciclabili su tutto il territorio nazionale. Oggi da Milano mi manda in onda Peter Bescapè e Danilo Litrani mi fa l'assistenza, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Stiamo facendo un sondaggio per cercare di capire se esista una maniera civile per cercare di abbassare il livello delle vittime sulla strada a bordo di biciclette. È un discorso antico, una questione culturale, che automobilisti e ciclisti si sentano antagonisti sulle strade, e indubbiamente la parte più fragile di questo dibattito è chi sta in una bicicletta rispetto a chi è chiuso nella sua automobile. Sentiamo qualche ascoltatore. Giampaolo Lido di Venezia, buongiorno. Ciao. Allora, la mia vicenda è quattro ciclisti in giro in bicicletta a Lido di Venezia, non zona trafficata, eppure uno si è distrutto, io mi sono salvato, uno è morto e mia moglie è in uno stato vegetativo di coscienza minima. In una... quando è accaduto questo? È accaduto nel 2016. La signora che ci ha centrato non siamo neanche mai riusciti a capire che cosa sia successo, perché ormai il penale si è estinto e non c'è neanche una legge che faccia da deterrente a chi guida la macchina, che potrebbe avere un'arma in mano. Ecco, lei Giampaolo ha un'esperienza che definire dolorosa sarebbe soltanto retorico, ma un'esperienza diretta che il problema esista. Al di là dello specifico del suo incidente, la signora è venuta addosso, non sapete manco perché, per come, per quando. Se voi fosse stati a bordo di un'automobile, su un furgoncino, su un camion, sarebbe stato uno dei tanti incidenti automobilistici di cui non si parla. In realtà è stata una strage, perché voi eravate in bicicletta e quindi più esposti. Da dove nasce? Qual è la radice del problema? È un problema culturale, un problema strutturale, un problema normativo, visto che lei ha un'esperienza così, così intensa, così personale e così lacerante? È un problema culturale, perché io poi anche sono del settore, perché per anni ho fatto direttore sportivo in squadre dilettantistiche, ho collaborato anche con i professionisti, quindi diciamo che lo spazio c'è, manca la cultura. I ragazzini che vengono fuori dalle scuole, io sono anche insegnante di educazione fisica, che vengono fuori dalle scuole, montano in bicicletta per dire al Lido, arrivano da Venezia per andare alla spiaggia e secondo te conoscono il codice della strada, conoscono i cartelli, conoscono i tecnici. Ma quindi il problema è un doversi venire incontro, cioè chi va in bicicletta deve comunque essere in possesso, ma voi eravate in possesso penso di tutte le capacità, sì, sì, e l'esperienza simile, quindi non è che ve lo siete andato a cercare. No, esatto, ma poi eravamo in una zona e in una giornata con tutta la visibilità che si poteva avere, non c'erano ostacoli, non c'era niente, eravamo in stile indiana. Io mi sono accorto che la macchina arrivava ma continuava a venire sempre di qua. Il primo è stato un po' toccato, io sono passato tra il muretto e il muso della macchina e tacci che ho avuto almeno la fortuna di non assistere a quello che è avvenuto alle spalle. Quindi va preso tutti come foste dei birilli, cioè vi aveva preso in pieno uno dietro l'altro perché eravate in fila indiana. Quindi cosa pensa? In quel caso cos'è? Una distrazione della signora, un non considerare le distanze, una non capacità di gestirlo? Non si riesce a capire. Perché quando c'entra il primo, uno inchioda, no? La fortuna sarebbe stata quella che fosse andata addosso al muretto e si sarebbe fermata lì e sarebbe finita la cosa senza danni. Eppure invece ha continuato, non c'è segno di frenata. Se lei proprio con tutta l'esperienza che ha a tutto tondo come insegnante di educazione fisica, come persona che si occupa, al di là del fatto che se poi c'è stato un procedimento, se la donna è stata accusata di omicidio, questo fa parte dell'aspetto normativo che dovrebbe in qualche maniera reprimere o creare un deterrente, ma non mi sembra che in Italia esistano deterrenti sufficienti. Vedo gente continua a telefonare in automobile, continua a mettersi alla guida dopo essersi fatta una sostanza alcolica, una sostanza stupefacente, quindi non spaventano i deterrenti quando un italiano è al volante. In questo caso, se dovesse dare una strada da seguire per trovare un punto di possibile, non dico soluzione, ma di approccio diverso a questo problema. È una questione culturale, cioè bisogna educare, è difficile perché la gioventù adesso vuole tutto subito, adesso vedi sono arrivati i monopattini elettrici, quindi adesso qui al Lido è uno sprezzare. Non vorrei manco toccarlo, perché già sono arrivati i dati dei primi incidenti a Roma di gente che è caduta col monopattino. Il monopattino e San Pietrino naturalmente difficilmente convivono, quindi belli monopattini lungo i marciapiedi dall'idea di libertà, ma cominciano ad esserci tante persone che si fanno male col monopattino, qualcuno c'è anche rimasto. Grazie, vediamo Marco da Lucca. Marco è invece un automobilista. Buongiorno Nicoletti. Sì. Allora, io sono uno che fa circa 100.000 km l'anno in macchina. In Toscana specialmente c'è un mare di ciclisti, ma io non voglio, non mi è successo niente questi anni con i ciclisti. Apprezzo molto quello che ha detto il signore di prima, però per quanto riguarda il fattore culturale, sia di chi porta la macchina e sia chi dice va in bicicletta. Mi spiego meglio. Io tutti i giorni, quando vedo un ciclista, comincio a suonare e stammi in pratica ascoltare. Per avvertirlo che sta arrivando, non è un gesto di scortesia, penso. Siccome le macchine oggigiorno sono molto silenziose. Ecco, certo, no? Un'automobile elettrica ha grandi vantaggi, ma lo svantaggio è che non si sente arrivare, chiaro, un'ibrida ha questo problema. Mi mandano subito a quel paese, normalmente, no? Un'altra cosa, quando vedo due ciclisti, sono stato un ciclista anch'io anni fa, camminare insieme a coppia e parlare, ma la domanda è questa, perché non ci fermano a un bar e stanno lì 10 minuti e parlano? Lei ha espresso perfettamente il punto di vista medio dell'automobilista. Allora, se io suono per avvertire che sto arrivando, anche perché onestamente sorpassare un ciclista in una strada magari in cui c'è divieto di sorpasso, una strada stretta, comporta comunque una manovra che richiede attenzione, e è giusto avvertire il ciclista che uno sta arrivando, perché magari non gli venga il momento di sbandare, di allargare la strada e via dicendo. Dal ciclista viene visto, come lo so perché anch'io sono ciclista, come un gesto di sfida, di aggressività, ti volti subito, lo mandi a quel paese, anche perché ti capita di trasalire quando improvvisamente strombazza. Strombazzare alle spalle del ciclista è un gesto di sfida o è un avvertire che si sta arrivando? È un gesto di provocazione o un gesto di attenzione? E qua nell'interpretazione del segnale e del codice si apre un mondo sterminato. Sentiamo Matteo, provincia di Mantova. Buongiorno, io oltre a essere praticante sono anche coinvolto nel settore perché costruisco bici e ritengo che i problemi sono sia di tipo culturale e noto un odio alimentato automobilisti, ciclisti, soprattutto sui social, e questo mi dà molto fastidio. Questo comunque, diciamo, questo fa parte di un'infinità di altri fenomeni in cui c'è una contrapposizione manichea di due punti di vista. Ma ad esempio lei, proprio l'automobilista che abbiamo sentito prima, dice: quando vedo due persone che chiacchierano per strada in bicicletta, suono il clacson. Quella suonata di clacson è l'inizio, è come suonare la tromba e dare l'avvio alla battaglia. Ma come ci si comporta? È chiaro, lo so bene, quando ti suonano dietro li mandi subito a fare il culo, perché dici subito, ma che vuoi? Esatto. Certo, ti spaventi, no. È normale, ma allora come ci si comporta? Esiste un codice? Secondo me c'è anche un problema strutturale, però, nel senso che io ritengo da tempo che vada tolto spazio, soprattutto mi rivolgo alle città, vada tolto spazio alle auto, vada tolto spazio alla doppia corsia, vada tolto spazio ai parcheggi per le auto, per favorire l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto. Questo sì, ma non costruendo chilometri e chilometri di piste ciclabili, perché se vuole un dato, Nicoletti, in 10 anni i chilometri delle piste ciclabili sono aumentati in maniera esponenziale. Ma gente non ci va nessuno. ma la gente che usa la bici come mezzo di trasporto è rimasta sempre quella, quindi vuol dire che quelle strutture o sono state fatte male o non sono servite, perché alla fine c'è la comodità dell'auto, va tolto spazio alle città nelle auto e dopo un periodo di rabbia sicuramente lei radicalizza l'aspetto ideologico a questo punto. Se lei ritira fuori l'ideologia della bicicletta privilegiata come mezzo di trasporto, si insorge coloro che pensano che il diritto all'automobile e alla viabilità su mezzo a motore sia un diritto inalienabile, come quello di portarsi una pistola in alcuni stati. E ancora una volta il problema si sposta da una sua soluzione razionale, come parlavamo della percezione del Covid ieri, a un problema ideologico. A questo punto chi difende la bicicletta, una persona che vuole fermare il traffico, fermare la produttività, fermare l'industria, ha una visione ecologica idilliaca e sbagliata. In realtà dovrebbero andare nelle piste ciclabili o andare a fare giretti da Omarell e non usare le biciclette. Ci fermiamo ancora un istante che non ne usciamo. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe, un unico partner, mille risorse. Chiama il 113. Chiamalo tu che io sto filmando. Vi ammazziamo tutti, pezzi di merda. Vi ammazziamo tutti. È la risposta che un gruppo di automobilisti ha dato davanti alla richiesta di liberare la ciclabile di Vittor Pisani, troppo spesso considerata come un comodo parcheggio per raggiungere i locali con pochi passi. Le auto sono parcheggiate sulla pista ciclabile e su una delle due corsie in direzione Piazza Duca d'Aosta. Volano insulti alla volta dei ciclisti. Gli animi si scaldano quando le auto che provengono da Piazza della Repubblica iniziano a suonare. Un ciclista viene investito. Dal locale partono le minacce, adesso usciamo e vi riempiamo di botte. Questo è uno dei tanti episodi in cui è palese che il problema si sposta immediatamente su un piano ideologico, una Weltanschauung, una visione della vita. Chi va in bicicletta vede e è visto in maniera differente la realtà rispetto a chi abitualmente va in auto e vede la bicicletta come un orpello di tempi passati, come un cedere all'ideologia buonista, salutista, ambientalista. E comunque la città è nostra, abbiamo le automobili, quindi non ci rompete le scatole. Le piste ciclabili non hanno senso, ma sono degli ottimi parcheggi, questa per dirla e riassumerla. Ma rendiamoci conto che il problema esiste veramente. Se c'è stato un incidente come quello a Zanardi, che è un personaggio prezioso per la comunità, e comunque sia qualcosa è avvenuto perché questo incidente avvenisse in quella strada, e alla fine a posteriori si osserverà, si vedrà, si capirà perché, per come, per quando. Vuol dire che in realtà il problema c'è. Ci si muove sempre in una zona intermedia, in una zona grigia, fra normativa, fra sfida comunque alle regole, fra capacità di adattarsi comunque a un vuoto che può essere riempito da chi in quel momento ha modo di occuparlo. E quando chi lo occupa ha una bicicletta rispetto a chi ha un'automobile, chi ha la bicicletta chiaramente è fisicamente svantaggiato. Simone da Roma, buongiorno. No. Sì, io chiamo da Roma e vabbè, innanzitutto volevo esprimere solidarietà agli sfortunati che hanno chiamato prima. Ma sono tanti, abbiamo letto i dati, sono un numero considerevole di morti in bicicletta ogni anno. Io sono un ciclista, diciamo, come si dice in gergo, commuter, quindi per lavoro pendolare tutti i giorni da 2 anni. E secondo me il problema di Roma, perché appunto chiamo di Roma, non è tanto posso dividere... chiederti che strada fai per capire a Roma come fai, allora, a pendolare in bicicletta? Io lavoro in centro, dietro al Parlamento, sì. Sì. E mi muovo da San Giovanni. Sì. Per quanto mi riguarda la mia esperienza, devo dire che due volte sono andato per terra e due volte tutte e due per colpa dei pedoni, perché via del corso. Li fate qualche marciapiede però per arrivarci, onestamente? Onestamente sì, li faccio e mi comporto. Però i marciapiedi ci passano i pedoni. Sì, lo so. Sui marciapiedi ci parcheggiano anche le macchine e i motorini, che non dovrebbero, sì, però. Sì. Sì, è un problema. Quindi, ti capisco, faccio le stesse cose anch'io, lo so. In certe strade, per non rischiare di essere travolti da un autobus, bisogna camminare sul marciapiede, è largo. Esatto. Poi chiaramente si invade lo spazio del pedone, si va nella pista ciclabile, poche o tante che siano, trovi i pedoni che camminano. Quando vedi una mamma con i bambini che vanno con le loro biciclettine, non è che puoi dire signora si sposti, o vedi le signore che passeggiano, vedi gli anziani che passeggiano, la gente che corre. Ti viene da dire la pista è nostra, ma uno cerca sempre di essere accomodante. È veramente un problema. Fausto, provincia di Milano. Fausto non risponde. Roberto da Milano. Pronto. Roberto, l'ascolto. Un tassista. Pronto. Vai, Fausto. Preso Fausto. Ecco, Fausto, allora, veloce. Ciao. Che siamo no, in conclusione. Nel senso, io sono per la 2. Secondo me è giusto vietare che l'accesso alle strade in cui le biciclette possono essere un intralcio alle auto. Questo. Ecco, giusto, però ti posso dire una cosa, io da tanti anni che vado con la bicicletta, sia da corsa che con la mountain bike, sono un ciclista. Uno, diciamo, punire i ciclisti indisciplinati, che purtroppo ce ne tanti, però mi capita spesso che la manutenzione delle strade, la buca, il tombino, all'improvviso uno cosa fa? Arriva in bicicletta, se lo schiva all'ultimo momento e poi arriva la macchina che può succedere, oggettivamente dovrebbero esserci strade per le automobili e strade per le biciclette. Mi sembra questa la conclusione di Fausto, che sembra alla fine, al di là del sondaggio, delle ipotesi, la miglior soluzione. È difficile allo stato attuale della viabilità delle automobili e della congestione del traffico pensare che ovunque biciclette e automobili possano percorrere le stesse strade. È il nostro piccolo contributo. Alla prossima.